Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 10:08 minuti, primi 49 secondi qui in diretta agli studi di Radio 24 di Milano per una nuova allegra, rude e un po' aspra e per farvi discutere, quindi anche un po' incazzosa, ma sempre con un po' di ironia, puntata dei Conti della Belva con tutti i compari. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Oscar Giannino che vi saluta, vi ringrazia e come al solito inizialmente vi ricorda lo spirito di questa trasmissione che serve a dare un po' di forza, di energia e di incazzatura quando è giusto al vostro sabato mattina. Suonate la carica! Ecco qua, e speriamo naturalmente di trovarci tutti in piedi a cavallo dopo la carica, perché a volte quando si fa una carica di cavalleria contro una linea di cannoni non si resta molto in piedi. Ora vi riepilogo di che cosa parliamo oggi. Naturalmente, se volete i documenti a portata di mano, come sempre sapete che basta andare sul sito della radio, Radio 24, andate su programmi, trovate Conti della Belva, trovate scansione per scansione di tutti i file con gli ospiti di cui parliamo oggi. Ma da subito vi invito a telefonare 800 24 00 24 349 2386666 e poi a mandarci tweet su Conti della Belva e così via su questi argomenti. Di cosa parliamo oggi? Innanzitutto ci sarà una riflessioncina iniziale sui primi dati concreti della ripresa economica italiana in altri paesi, ma soprattutto di quella italiana, perché il nostro spirito è quello di essere dei gufi che non tendono a ubriacarsi, per così dire. I gufi non bevono alcol e quindi tenteranno di vedere insieme a voi i numeri, quelli veri, sugli occupati, consumi elettrici e così via, per capire se davvero siamo in presenza di questo potente evento di svolta oppure se forse è il caso di essere un pochino più prudenti. Diciamo che accendiamo la luce su questi dati, diciamo, particolarmente elettrizzanti. Allora, innanzitutto questo, e vedendo anche qualche altro paese che forse ha qualche motivo in più per parlare di svolte vere, numeri alla mano, e non c'entra niente il giudizio politico, però primo questo. Seconda grande questione di cui parliamo, insomma, oggi è San Perpetua e Felicita, domani c'è questo, come tutti i giorni fissi l'anno, a me non piace troppo perché bisognerebbe il resto dell'anno occuparsene, cioè occuparsene della questione delle donne. Noi la mettiamo ancora una volta sui numeri e sull'economia e quindi insieme a voi ripercorreremo come mai, domanda, in Italia abbiamo più disoccupate, più precarie, meno pagate le donne degli uomini. Perché le donne non mi fanno abbastanza PIL, Oscar, qui c'è un problema. Non le donne fanno non abbastanza mi fanno PIL? Cioè, devono far più PIL. Cioè la domanda diventa le vostre telefonate, ma perché dobbiamo continuare a pagare questo enorme prezzo ai pregiudizi e alle regole scritte da noi maschi? Abbiamo ragione o abbiamo torto, conti alla mano, a costruire un mondo del lavoro, un mondo del welfare, un mondo di preferenze nelle aziende, nell'amministrazione pubblica? Tutto fatto a parole sulla parità e di fatto invece sulla sua violazione è un costo, sì. Cambieremo testa? No. Questa è alcune delle domande. Naturalmente potete telefonare dicendo piantatela di rompere, nella crisi meglio che le donne stiano a casa e che lavoriamo noi uomini, perché molti so che lo pensano, però intanto diteci come la pensate. Poi un altro blocco importante, perché dopo 20 anni ci pare il momento di porre questa questione. Ora che apprendiamo che Salvini è in televisione più di Renzi, la domanda diventa: dopo 20 anni è morto il partito che pretendeva di rappresentare la libera impresa e quella del nord? È un bene che sia morto, è un male che sia morto, è solo il fallimento della destra berlusconiana, però è il fallimento anche della Lega che diceva liberismo e impresa, cambia tutto, è un bene o un male? Telefonate liberamente, un tema politico ma sempre con l'economia e le imprese e la crescita e gli autonomi. E poi sto nord che non c'è più perché siamo ai partiti nazionali, può essere che voi siete convinti che sia un bene, sentiremo naturalmente le vostre opinioni, le vostre opinioni su questo. Naturalmente avremo una bella rubrica non si può fare, ma faremo anche un po' di autocritica, Mario, sui giornalisti e come l'informazione trattano alcune vicende, tipo il processo di Trani. Ricordiamo un secondo brevissimamente, perché poi ci torniamo, di che si occupa il processo di Trani, Mario? Ma cerca di capire se l'agenzia di rating Standard & Poor ha determinato un attentato al nostro paese e alla sua sovranità, che è vast program, avrebbe detto De Gaulle, quindi direi che ci arriveremo. A Trani, cioè il problema è che poi il giudice naturale di un tema di questo genere qua, la sovranità del paese. assolutamente. Si giudica a trani. Ma non lo sai che c'erano le preture d'assalto, adesso ci sono rimasti come residuo le procure d'assalto. Le procure, interessante adesso. Evoluzione della specie. No, ma la procura di Trani ha la responsabilità per i complotti. Esattamente. Che è uno dei grandi filoni dell'informazione, il complottismo. Ma comunque si tratta di un tema serio a livello globale e che all'italiana diventa una piccola commediola. L'informazione è una pesante responsabilità e quindi in questo caso bisogna essere autocritici. Ma infine, giro di vite e di opinioni. Che cosa ci ha fatto incazzare? Caro Alberto, che ti ha fatto incazzare questa settimana? Che dopo un decennio di parole sono arrivati anche un po' di slide sul tema delle strategie digitali di questo paese. Sai che mi sta molto a cuore questa faccenda, penso che sia un pezzo fondamentale della ripresa economica e del futuro del paese. E il governo, come al solito, in queste condizioni, purtroppo se la canta e se la suona da solo, perché l'opposizione su questo tema è stata completamente assente, no? Il governo prova a parlare di banda larga, Forza Italia forse è ferma alla bandana larga, perché l'ultima cosa che gli viene in mente è parlare di tecnologia anche per qualche filo di conflitto di interessi, no? La Lega sì e no è ferma alla felpa larga, anzi oversize, e sostanzialmente non, diciamo, tematiche di tecnologia e di innovazione non sa neanche cosa sono. Gli amici del Movimento 5 Stelle dicono sì bella roba, purché lo Stato sia in grado di controllare e monopolisticamente presidiare tutte le infrastrutture, che do solo lo Stato, cioè. E ragazzi, ma Stato qua, a Casaleggio ma qua chi è che si occupa del futuro dei nostri figli, delle modalità con cui lavoreremo? Trafiggo al volo con questo ambito renziano, ricordando che al Consiglio dei Ministri Renzi si è dovuto tenere nel cassetto una bozza di decreto che era sovietico e che limitava la libertà di impresa. Quindi l'opposizione sta zitta e ha ragione. Renzi non mi pare che però anche lui abbia però tutte queste ragioni. Mario. Ma io vorrei un attimo così andare un po' fuori dai temi economici tradizionali, perché ieri, tornando a casa, accendendo la televisione, guardando i telegiornali, ho visto questo tripudio di Berlusconi che parla al telefono su eventi che sono penalmente assolutamente irrilevanti, che riguardano, diciamo, la sua vita privata, pur se ovviamente c'è un problema di opportunità, questo non lo dimentichiamo in nessun caso. Però io credo che stiamo continuando a ripetere alcuni errori, no? Di merito e di metodo, e parlo dei media, non so perché uso il noi, però deve essere uno strano riflesso che deriva dal fatto che ho una tesserina in tasca. E quindi direi, ma scusate, perché cosa c'entra Berlusconi che parla al telefono di eventi che sono penalmente non rilevanti in relazione ad un processo in cui non è neppure imputato? E adesso scatenatevi con gli SMS a dire che sono berlusconiano, perché alla fine farò il giro di tutto quello che un tempo era l'arco costituzionale e sarò di tutti. Basta parlare con merito in dissenso su qualche punto per ottenere la somma. Ma io li faccio impazzire tutti, non sapranno più chi sono. Allora, però su Siriza ti aspetto. Su Siriza ti aspetto tra poco, Mario. C'è un ascoltatore che continua a mandare ogni sabato: oh, ma di Tsipras non parlate, ma che cosa va in automatico? Oggi parliamo di Tsipras, anzi di quel mago che è Varoufakis, che è Zalonakis, l'arruolatore di turisti come ispettori pagati a ore sull'IVA, film di Totò, ragazzi. E invece a te? No, io invece di, più che arrabbiato, sono stufo. Sono stufo del pelosissimo discorso del devono spendere poco. Cioè, il Presidente del Consiglio ha tutto il diritto, come in ogni stato del mondo, di andarsene in giro come cavolo vuole. Io purtroppo sono abituato in azienda tu guardi i risultati, perché ricordatevi che se tutte le volte dite e parlate solo di costi, ogni volta voi sarete guardati solo come un costo, anche voi persone. Invece il problema è il risultato, non il costo. Perché a me che Renzi vada in elicottero interessa poco. A me interessa che Renzi faccia funzionare sto piffero di paese, poi vada un po' in giro come vuole, s'arrangi, è il Presidente del Consiglio, può anche usare l'elicottero, dai. Vabbè. Oggi siete tutti presi da uno strano attacco, fate tutte delle parti fuori dal ruolo, mi piace questa cosa, mi piace. È la primavera, Piace, è la primavera che l'Italia, le mesta, le della belva. Eccoci qui, tornati in diretta dagli studi di Radio 24, Milano 10-18 prima, anzi 19 primi, con i compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar Giannino. Allora cominciamo in questo primo blocco a ragionare con Mario Seminario, con tutti noi, ma innanzitutto con Mario, su alcuni blocchetti di dati che sono usciti sull'andamento dell'economia, di alcuni settori dell'economia, di alcuni segmenti dell'economia, il mercato del lavoro, il mercato dei consumi elettrici e così via, per vedere di fare il punto, numeri alla mano, se in Ira ac studio, come si dice in latino, su come stanno andando veramente le cose. Allora cominciamo dagli occupati, Mario. Sì, ma allora per quanto riguarda gli occupati, diciamo, il dato mensile mostra che c'è una crescita praticamente nulla, no? Su queste 11.000 unità nel mese di gennaio, che non vogliono di per sé dire nulla. Più interessante è il dato del quarto trimestre, no? Che del mostra, 2014. Esatto, che mostra questi 156.000 impieghi in più. Intanto è un numero non destagionalizzato, per cui basta un giorno di calendario in più o in meno per fare una differenza rilevante. Però ci sono altri due dati da dire, senza annoiare troppo. Uno, di questi 156.000, 44.000 sono italiani, 113.000 sono stranieri. Per cui io non sto facendo un discorso di discriminazione, esatto, perché non me ne può fregare di meno, esatto, eccetera. Però siccome questo è un tema politicamente molto sensibile e tende ad essere sottaciuto nel dibattito politico, conviene fare una riflessione e magari andare a fare un po' di drilling, di perforazione in questo dato e capire perché gli stranieri continuano a generare occupazione. L'altro dato... Naturalmente questo ha anche a che vedere, come sappiamo, vista la stratificazione per specializzazione dei tipi di lavoro nel nostro mercato, ci dice anche della qualità, certo, del lavoro. Esatto, esatto, sì. No, esatto. No, guarda, non solo fanno posti di lavoro, fanno anche impresa. Gli imprenditori stranieri sono la maggioranza in Lombardia, cioè la Lombardia cresce di più con numeri. Quelli aggiuntivi. Quelli aggiuntivi, sì, sì. Le nuove imprese nascono soprattutto da imprenditori stranieri. Poi l'altro dato del mercato del lavoro è che è vero che gli occupati a tempo pieno stanno lentamente aumentando, però notiamo che c'è un costante aumento degli occupati a part-time, ma soprattutto di occupati a part-time cosiddetto involontario, cioè gente che non può trovare il tempo pieno o che ha subito una decurtazione del tempo pieno per motivi economici, perché lavora in aziende che si sono indebolite. Allora, se noi facessimo un'applicazione analogica a quanto succede negli Stati Uniti, dove le statistiche sono legge e divinità, potremmo chiaramente arrivare all'inferenza che un paese dove c'è una elevata quota di occupati a tempo parziale involontari, cioè gente che vuole il tempo pieno ma non lo trova, è un paese che ancora non sta curando il proprio mercato del lavoro. Quindi io non sono qui a vedere il bicchiere mezzo vuoto, contrariamente a quello che molti pensano. Dico semplicemente che il trionfalismo va temperato con un minimo di analisi raziocinante dei dati. E questo per quanto riguarda il mercato del lavoro. Anche perché, aspetta un secondo, voglio dire, la differenza tra gli aumenti del tempo pieno, tempo indeterminato, voglio dire, e gli altri è tempo determinato più 0,2, esatto, quelli invece tempo determinato più 3,2%, quindi come vedete è proprio, non è che stiamo parlando di sfumature, stiamo parlando del fatto che praticamente tutta occupazione aggiuntiva è nella parte a tempo, e di quella parte a tempo tra metà e due terzi, anzi quasi due terzi, è fatta esattamente, esatto, di involontari, dei tempi parziali involontari, esatto, esatto. E poi se consideri la grandezza fondamentale, cioè il numero di ore lavorate, è chiaro che un paese dove il tempo pieno cresce poco e cresce di più il tempo parziale involontario è un paese che ha una progressione di ore lavorate molto debole. Per questo bisognerebbe guardare le cosiddette ULA, no? Le unità di lavoro nell'anno, che nel 2014, dato definitivo Istat, è cresciuto dello 0,2%. Quello è il vero indicatore di condizione del mercato del lavoro, perché per essere considerati occupati bisogna avere anche lavorato un'ora nel periodo di rilevazione di riferimento. Quindi voi capite che non è probante una cosa del genere, serve solo a fare felici i trombettieri. I trombettieri. Beh, allora, questi dati da cui imprenditore abbiamo parlato... però c'è da dire due cose. Sì. Una, che in dicembre un po' di occupati in più, se poi non lo stagionalizzi, ci sono sempre nel commercio, perché anche le mie figlie hanno lavorato in dicembre nel commercio. E poi c'è da dire che l'effetto annuncio ferma sempre il mercato. Da oggi parte veramente il Jobs Act, o vedremo, meglio, la parte del contratto a tutte le crescenti. Vedremo cosa succede da oggi in poi e cosa faranno i miei colleghi da oggi in poi. Noi stessi, devo dire, abbiamo sospeso delle assunzioni a tempo indeterminato perché non sapevamo che regole applicare, tanto per intenderci. Comunque a me è capitato di paragonare, perché questi dati che abbiamo commentato sono quelli congiunturali, ovviamente, quelle delle ultime release che trovate nella settimana, nel corso della settimana, da parte dell'Istat. Se vedete l'effetto accumulato dell'intero 2014 sul 2013, lì siamo, Mario, sono, ricordo male, 131.000 sono, sì, i posti di, sì, lavoro, sì, incentivo. Sì. Allora, per capire, quello è accumulato sul 2013. Naturalmente fotografa una situazione in cui prima abbiamo continuato a perdere e adesso stiamo commentando i segni che cambiano, i primi segni che di apprezzabile segno più, molto lenti. Mi è capitato di paragonare questo più 131.000 dell'Italia lavoro nel 2014 sul 2013 con gli oltre 90.000 posti di lavoro aggiunti dalla Spagna nel solo mese di febbraio. Anche lì, attenzione, nessuno di noi sta inneggiando alla Spagna, troverete un mucchio di post di Mario Seminario negli anni, questi ultimi due anni, su, se andate su Fastidio, sui difetti e le pecche dell'inneggiare alla ripresa spagnola. Sta di fatto che capite che quando si aggiungono 90 e più mila posti in un mese rispetto a 131.000 in un anno, siamo in presenza, senza voler inneggiare, ma comunque davvero a ritmi accentuati di ripresa da una parte, lì la disoccupazione continua ad essere il 24%, quindi ce n'è un mare doppio che da noi, ma detto questo, quelli sono i ritmi. Gli Stati Uniti hanno ieri rilasciato l'ultima stima del mese. Gli Stati Uniti sono alla più lunga, alla più positiva serie trentennale in più di 30 anni come numero di mesi consecutivi di creazione di posti di lavoro aggiuntivo superiore alle 200.000 unità. Ieri abbiamo sfiorato le 300.000 unità, perché sono 12 mesi consecutivi in cui l'aggiunta di lavoro è superiore alle 200.000 unità. Anche lì, attenzione, la partecipazione al mercato del lavoro complessiva degli americani è tornata indietro a quella degli anni 70, quindi non inneggiamo, però capite bene che le riprese vere sono quelle. Tu che dici, Carlo? Ma dico che la natura del lavoro sta cambiando negli Stati Uniti profondamente, sia nel mix dei servizi che nel mix del manufatturiero. Quindi noi siamo abituati a contarli i posti di lavoro e cucianamente dovrei dirti che dovremmo imparare a pesarli. Imparare a pesarli perché, a parte le unità di comparazione che sono ancora che misurano le ore, la verità è che gli studiosi e le organizzazioni sanno che dentro a quegli indicatori c'è veramente una storia molto diversa, Oscar. E quindi l'invito a tutti noi è provare a vedere cosa sta sotto la superficie di questi macronumeri, perché senza una visione micro purtroppo ci perdiamo l'evoluzione profonda del dell'organizzativo. Perché ci può essere un aumento occupazionale come quello avvenuto negli anni successivi ai pacchetti 3, per essere chiari. Noi abbiamo diminuito il 50% la disoccupazione precedente, però noi abbiamo fatto molti occupati, ma però li abbiamo fatti a basso valore aggiunto, a bassa produttività in quegli anni, il che va benissimo più occupati, ma non va bene poi per il conto generale, per così dire. Sì, dicevi prima per esempio del fatto che l'aumento della quota di stranieri dice molto della natura del lavoro. Se andiamo a vedere anche il mercato che servono questi lavoratori, probabilmente il mercato nazionale in buona parte, no? È un'ipotesi che faccio, quindi non mi stanno aggiungendo una capacità produttiva che si può agganciare a un pezzo di ripresa, perché con la domanda interna che è nelle condizioni che sappiamo, può anche darsi che siano in realtà posti che vanno a gestire una domanda marginale, o comunque vanno a fare concorrenza interna a basso costo. Allora andiamo invece alla batteria di dati su energetici. Sì, ma Terna ha emesso questo comunicato, diciamo, da relazioni esterne molto government friendly, direi. Io l'avrei chiamata Quaterna in questo, esatto, caso, nel senso che, ma dico cinquina, tombola! No, l'incipit del comunicato. Caro controllante. Aziende di Stato. No, ma è l'incipit del comunicato che dice: per la prima volta da tempo in memoria, insomma una cosa del genere, a febbraio i consumi elettrici sono aumentati, al che subito parte il riflesso condizionato delle agenzie di stampa che rilanciano tripudio, poi ci sono i soliti piddini appollaiati con il lancio dell'ANSA e la nuova disciplina olimpionica, e ripeterò tutto. Poi se uno va a leggere attentamente nel dettaglio di questo comunicato si scopre che, in soldoni, diciamo un paio di cose. Il primo La prima è che abbiamo avuto una temperatura di a febbraio 2015 di 2,5 gradi più bassa rispetto al 2014, per cui esiste un fattore di correzione statistica nei consumi elettrici legato alla temperatura, ergo a febbraio non è più 0,7 ma a parità, diciamo, di gradiente di temperatura è meno 0,7. Poi se facciamo ho capito, scusa, poi se sommiamo gennaio e febbraio, perché si usa accorpare i bimestri per smorzare la volatilità dei dati, si trova che gennaio e febbraio 2015 hanno fatto peggio, cioè i consumi elettrici sono stati inferiori rispetto a gennaio e febbraio 2014, per cui dobbiamo inaugurare una rubrica, non adotta un neurone di fastidio, ma di che diavolo stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che abbiamo capito che il freddo ti fa Renzi. Sì, no, vabbè, esatto, ma dipende, esatto, d'inverno il freddo ti fa Renzi. Io invece sostengo che Terna ha fatto un'opa ostile sull'Istituto Luce a questo punto. Sì, no, però si mettano in coda, perché c'è la fila, diciamo. No, è come dire, la deflazione sta allentando la presa, perché il maltempo ha distrutto tutta la verdura e i prezzi dell'ortofrutta sono rimbalzati e qui è finita la deflazione. Viva Odo Augelli far festa, viva Renzi e la sua grandine. Però capite che non funziona così, lo so, però una cosa mi interessava sapere, ci sono delle cose di correzione per il risparmio energetico, visto che le aziende negli ultimi anni hanno molto... Questo è un ottimo punto. Hanno risparmiato sul lavoro, no? Finché non entri dentro a comparare quei watt, bravo, o quei esatto. che, capisci? E vai a vedere come gli effetti di ristrutturazioni energetiche dell'edilizia, che è un pezzo importante, no? E un modello di consumi che non funziona più con l'idea dell'industria pesante, per cui l'elettricità era funzione lineare della produzione. Tu pensa solo Terna cosa può valere, adesso non ho idea, ma è come per la Cina, no? Quando si diceva della Cina stanno crollando i consumi elettrici, è vero, probabilmente sono crollati perché l'industria pesante ha picchiato il freno pesantemente, tutto quello che vuoi, però c'è anche da considerare la correzione per le nuove tecnologie e anche per un cambiamento nei gusti e nelle preferenze del consumatore, perché adesso in questo paese, in Italia, d'estate i consumi elettrici sono alti quanto e più che in inverno, perché i climatizzatori per uso domestico si stanno diffondendo in modo generalizzato, per cui ci sono proprio dei modelli di cambiamento comportamentale che modificano le tendenze storiche, e questo inficia ulteriormente la qualità di quel comunicato di Terna, con tutto il rispetto per Terna. Diciamo, sintesi estrema, avrete capito che la BCE darà una mano e cominciano da venire mega acquisti, il petrolio dà una mano, a febbraio è cresciuto del 15%, la BCE dà una mano, stampa miliardi di banconote che finiscono nei forzieri di banche trasportate. Stiamo ironizzando a proposito di un servizio mandato in onda dal TG della 7 ieri sera, in cui chi l'ha ascoltato poteva sentire persone secondo le quali starebbero stampando la notte quelli del poligrafico, ci sarebbero dei cortei corazzati, cortei blindatissimi, praticamente la festa della Madonna Pellegrina, portano in trionfo questi soldi fragranti appena usciti dal forno. Allora, delle due l'una: o chi ha fatto quel servizio, detto quelle cose, non ha la minima idea di cosa stiamo parlando e di che cosa sia qui, oppure ha preso tutti, ha fatto ironia senza dirlo. Ecco, naturalmente la seconda è un'ipotesi che serve per salvare capre e cavoli. Temiamo che sia la prima. Guardatevi da chi vi racconta cose di questo genere. Della belva. Eccoci qui, tornati in questo sabato 7 marzo in diretta 10:37 primi, siamo un po' in ritardo in quel secondo blocco, e tra poco parleremo per un po' di quanto ci costa il gender gap, cioè il ritardo che noi imponiamo, il peso, il piombo che mettiamo sulle spalle delle ragazze, delle donne, delle signore anche più avanti in età nel nostro paese. Ricorderemo qualche dato del fatto che le facciamo lavorare di meno, le facciamo stare più disoccupate, sono più precarie, le paghiamo di meno, naturalmente fanno il conto orario medio di lavoro non retribuito, cioè cure casalinghe e parentali, che è il più elevato all'interno dei paesi OCSE. Questo la dice lungo sulla cultura, sul fatto che è un problema culturale, antropologico dei maschi italiani, noi maschi italiani, perché è la media oraria più alta di tutti gli altri paesi. E però questa cosa A rappresenta un costo, B la domanda è ad alcuni piace, C questo costo perché lo dobbiamo pagare quando siamo convinti che invece generalmente queste siano cose non troppo importanti, ma insomma, se nella crisi lavorano meno le donne ci sono più posti di lavoro per gli uomini, questo è quello che pensa la maggior parte degli amici maschi in ascolto. Intanto due telefonate di ascoltatori sui temi che abbiamo finora trattato. Franco da Roma, prego Franco. Ci sei? Salve. Eccoci. Sì, d'accordissimo su quello che avete detto, ripresa su settori marginali oppure su settori interni a basso valore aggiunto. Ma alcuni dati. Negli anni 70 il boom economico 60-70 fu soprattutto dal fatto che l'Italia deteneva il 24% dei brevetti a livello mondiale, oggi stiamo sotto il 3%. Per cui, per fare una metafora da filo oltre il giardino, per la ricrescita ci vuole terreno, braccia e sementi, bene, ci mancano le sementi. Per cui è inutile dire sì, ma che cosa produciamo quando l'innovazione viene acquisita e acquistata soltanto dall'estero? Cosa fare? La mia idea è questa: defiscalizzare i costi della ricerca scientifica. Naturalmente la ricerca è fatta ricerca di base, applicare e sviluppo. Per la ricerca di base i costi verrebbero tagliati completamente, defiscalizzati completamente. Per la ricerca di base e di sviluppo a percentuali decrescenti. In questo modo si richiamerebbero anche tutti i ricercatori stranieri, dell'emorragia che ci costa, da voi l'ho sentito e anche confermato da altri, oltre 15 miliardi l'anno, cose che non succedevano negli anni 60-70 quando i ricercatori rimanevano qui da noi perché non c'era questa mobilità internazionale. Quindi la tua opinione è che bisogna puntare soprattutto sull'intangible, capitale umano, ricerca, innovazione, brevetti. Ti ricordo che da anni c'è una specie di colluttazione a ogni legge di stabilità sulla copertura del credito incentivo fiscale agli investimenti in RS delle imprese, passa tutto attraverso quella specie di forca caudina che si chiama il click day, per cui vince la quota del totale chi arriva primo, quindi chi ha in digital divide o non ha la banda veloce può avere anche il miglior progetto, ma tanto non entra nella graduatoria a proposito di innovazione. Andrea da Milano, come la pensa invece Andrea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei portare la mia esperienza, io sono un commercialista, lavoro a Milano e sono molto critico su quello che ha fatto Renzi e che sta creando in Italia, perché si parla di Jobs Act, si parla della finanziaria che ha fatto e in realtà lui ha creato lavoratori di serie A, dipendenti pubblici, e lavoratori di serie B, C, Z, che sono le partite IVA. Ha completamente ammazzato il mercato delle nuove partite IVA con una finanziaria che ha distrutto i nuovi minimi, ha ridotto ogni possibilità di una tassazione agevolata sui piccoli redditi e alla fine in un paese in cui non c'è una grossa industria ma in cui ci sono moltissimi piccoli artigiani e moltissimi nuovi giovani che vorrebbero aprire una partita IVA ma che non possono perché si scontrano con la gestione separata IMSS, si scontrano con le tassazioni che ci sono adesso elevatissime anche sui piccoli redditi, contro una legge Fornero che impone per legge che una partita IVA che in un anno abbia un reddito inferiore a 18.000 euro sia per legge fasulla, quindi ponendo a rischio sia la stessa partita IVA sia il committente. E in questo modo si blocca il mercato del lavoro, si blocca tutto, perché alla fine quello che realmente muove l'economia sono tutto questo piccolo tessuto imprenditoriale che caratterizza l'Italia. E questo e quindi tu sei molto molto molto molto critico. Diamo anche atto al governo che poi sul regime dei minimi ha dovuto fare marcia indietro rispetto al massacro che aveva fatto. Certo, il bonus 80 euro è andato chi è andato, per essere chiaro. Comunque effettivamente la più grande riduzione delle tasse nella storia della Repubblica. Anche tu Oscar dovresti leggere attentamente i comunicati del Ministero delle dell'economia e delle finanze, che correggono quei pazzerelloni dell'Istat che si ostinano ad applicare la regola europea. Ma è ora di finirla. Invito tutti ad andare a vedere sul sito del MEF la settantina di pagine grafici, è uscito l'altro ieri il riepilogo generale tributario al 31 dicembre 2014. Troverete il totale delle entrate pubbliche salito al 48,1% del PIL, in crescita rispetto al 2013. Troverete le imposte locali, quelle che sono dichiarate da sempre invarianti, le troverete crescere da 64 a 66,7 miliardi rispetto al 2013. Troverete le imposte energetiche cresciute malgrado la crisi italiana, in tutte e tre le componenti, sia quelle da carburanti, sia quelle su gas metano, sia su quelle elettriche, fino alla modestissima cifra di 39,8 miliardi di euro nel 2014. Questi sono i dati ufficiali del governo italiano. Tagliamo le tasse, è una palla! Ecco, è chiaro, ve l'ho detto come la penso, è una balla. Andate a vedere il riepilogo e poi vediamo se le cose stanno così. Dati del governo, anche se poi naturalmente i componenti del governo dicono che stiamo tagliando le tasse. Chiusa questa parentesi, andiamo alla questione di fondo. Agli uomini e donne divisi da 450 euro, ha titolato il Corriere della Sera il 5 marzo scorso, il divario di guadagno in Italia è calcolato su tutti i cittadini, la percentuale è vicina al 7% se si considera chi lavora. In banca e assicurazione la differenza è più accentuata, servono i congedi parentali anche per gli autonomi. Però se andiamo a vedere i dati, al netto della grande passo avanti degli ultimi anni con la legge sulle quote rosa, cioè della percentuale di signore nei consigli di amministrazione delle quotate, in quello si è visto un po' di avvicinamento alla media dei paesi più avanzati, cioè una norma a tempo che istituisce delle quote, ma in tutto il resto, se andiamo a vedere l'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, la disoccupazione distinta per genere uomini e donne, la percentuale di precari distinta per uomini e donne, in ogni caso noi non ci siamo, perché rispetto alla media dei paesi e rispetto a quelli più avanzati, ovviamente quelli nord europei, noi siamo malissimo, cioè noi abbiamo creato scelte, preferenze e regole per le quali le donne sono svantaggiate. Ecco, allora la domanda diventa: A, questa roba quanto costa? B, da che cosa dipende? Dipende dalla testa degli uomini? Io la penso così, magari molti no. Allora, per parlare di queste cose abbiamo chiesto a due ospiti di aiutarci a capire nella loro esperienza cosa si può fare e da che cosa dipende. Chi sono i nostri due ospiti? Sono Paola Profeta, che è associato di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi. Buona giornata e grazie a Paola Profeta. Buongiorno a voi. E Anna Maria Berardi De Pace, avvocato, esperta di diritto di famiglia, che il suo ultimo libro è Dall'amore all'amore, Mondadori 2014, ma insomma una che, per come la conosco, ha visto nel tempo cambiare o non cambiare la testa e il costume degli italiani, l'impostazione di come si sta o non si sta tra uomini e donne in famiglia, di come ci si rispetta o non ci si rispetta, e questo aspetto mi interessa molto perché secondo me è centrale in questa questione. Quindi grazie all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Buongiorno a tutti voi. Cominciamo da Paola Profeta. Quanto costa questa cosa e come si può cambiare secondo lei? Sì, costa molto, nel senso che non avere un tasso di occupazione femminile alto o comunque simile a quello degli altri paesi o comunque più vicino al tasso di occupazione maschile significa rinunciare a una fetta sostanziale dell'occupazione, che quindi non si traduce in reddito, in ricchezza e poi in crescita per il paese. Ci sono diverse stime in giro che sono state fatte anche recentemente da Christine Lagarde presso il Fondo Monetario Internazionale, che cercano proprio di quantificare qual è la perdita in termini di PIL. Noi ci eravamo cimentate in questo esercizio qualche anno fa per l'Italia, sono perdite comunque sostanziali, soprattutto in un paese che non cresce, che comunque non riesce a ripartire. È anche vero che è un periodo comunque di crisi, perché stiamo comunque attraversando una crisi sul mercato del lavoro, quindi di riduzione dei tassi di occupazione non solo fissi femminili ma anche maschili, però il fatto che il tasso di occupazione femminile sia inchiodato a questo 47%, decimo più, decimo meno, ormai da tanti anni, almeno dal 2006-2007, non cresce proprio per niente, è un grosso problema. Cosa fare è la domanda chiave, perché premesso che dobbiamo fare qualcosa, perché non possiamo permetterci di sprecare il talento femminile e l'occupazione della metà della popolazione del nostro paese. 47% significa che meno di una donna su due lavora in Italia, per intenderci, quindi è pochissimo, con anche un'ampia variabilità regionale tra il nord, il centro e il sud. Ecco, premesso questo, le misure è sempre un po' la parte più delicata, perché come dicevo anche lei prima, siamo partiti dai vertici, dall'alto, quindi dalle posizioni apicali in cui effettivamente ci sono stati tanti cambiamenti, perché la legge sulle quote impone una presenza femminile molto più alta. Siamo passati dal 6% al 23% di donne nelle posizioni, per così dire, di grande potere. Però dobbiamo vedere se questo avrà un effetto anche a cascata verso il basso. Quando arriviamo all'occupazione vera e propria, possiamo, le politiche che si possono mettere in campo sono tante e devono essere comunque discusse ed intraprese. Possiamo parlare dei congedi, come dicevamo prima, congedi parentali e congedi per i padri, perché c'è un problema a valle di questo differenziale di occupazione maschile e femminile, che è quello della mancata uguaglianza tra uomini e donne nelle attività di cura. Sì, insomma, io ho l'impressione, Paola, che noi abbiamo cambiato il diritto di famiglia ormai un bel po' di anni fa, non c'è più la patria potestà, ma c'è la potestà parentale, cioè noi facciamo un grande lavoro di lifting verbale che omaggia la parità di genere. Di fatto, nella mia esperienza, a me, sarò un'eccezione, a me sono capitate sempre solo in decenni in cui lavoro in imprese diverse, di grandezza diversa, di tipo diverso, mi sono sempre capitate aziende in cui stracomandavano i maschi. Se c'erano femmine in posti di comando non potevano comportarsi da donne, cioè non potevano mettere avanti priorità coerenti al fatto, per esempio, abbiamo le risorse per fare un asilo nido aziendale, ce lo facciamo incentivare, ma lo facciamo per la conciliazione dei tempi di lavoro, non solo chiedendolo allo Stato ma dal basso? No, perché se sono con amministratrici nell'azienda, se faccio questo i consiglieri maschi mi dicono no, non puoi fare questo. Sarà capitato solo a me che in basso c'erano direttori, vice direttori, capi redattori che mobbizzavano le stagiste e gli chiedevano favori, compresi sessuali, impropri? Sarà capitato solo a me? No. E sarà capitato solo a me? Non credo che sia capitato solo a me, questa è la mia opinione di fondo. Quindi ci rendiamo atto al governo, cari compari, che c'è un ministro donna su due, ma se poi non contano un cazzo, che me ne frega di qual è il numero, scusate. Allora, questa è la mia opinione. Se ti piglia il ministro Lanzetta, che è stata ministro, e la si rispedisce in farmacia in Calabria, la sintesi è: nessuno si è reso conto che eri ministra, nessuno ti piangerà perché non lo eri, ma allora non me la mettere la donna per trattarla così. Io sono sincero, a me questa roba ipocrita di fare la parità di genere non piace. Preferirei che un po' di maschi telefonassero e ci dicessero: non ci rompessero le palle le signore, comandiamo noi, perché almeno sarebbero coerenti con tutto quello che ho visto nella mia esperienza lavorativa. Ho la tendenza a fare nelle grandi imprese multinazionali pubbliche delle donne presidenti con deleghe depotenziate. Con deleghe depotenziate, ma Marcegaglia Alleni e così via. Esattamente. E di che cosa stiamo parlando? Perché vogliamo parlare dei grandi poteri della Tarantola alla RAI rispetto a Cubito? Però se posso chiedere una cosa a Paola, non è che il Jobs Act è un'occasione perduta per introdurre un modello di lavoro che non sia basato sul concetto ottocentesco dell'occupazione, no? Stabile, modello fordista? Perché non abbiamo colto questa grande opportunità per ripensare a nuovi contratti più orientati al genere? Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta e ci dobbiamo scusare con voi in ascolto e naturalmente con la Maria Bernardina De Pace, perché il nostro regista dell'Isis, no sto scherzando, il regista è incolpevole, la colpa è la mia che pensavo che l'interruzione fosse alle 11 con orario generale radio e invece ovviamente c'era prima il blocco, quindi abbiamo fatto una cosa veramente da apprendista cretino di cui la responsabilità è solo mia, perché abbiamo boom tagliato la voce all'ospite, al flusso della trasmissione, e capita, il regista non è dell'Isis e in questo caso la colpa è mia, che mi ero dimenticato, non si fa, però avevamo appunto chiesto alla Maria Bernardina De Pace, siamo nei blocchi in cui parliamo del quanto costa questa economia costruita ancora sul ritardo di genere e di chi è la colpa, come si fa a cambiare, sempre che sia giusto, perché molti ascoltatori dicono che ho avuto un'impostazione alla Boldrini e ci sono dei messaggi molto critici, perché ovviamente basta parlare, perché Giannino parla di maschi e invece dici donne invece che femmine, perché è evidente che lo fai perché per farti sembrare di sinistra. Io non la penso così, penso che sia un problema. Anna Maria Bernardini, come la pensa e come si cambia? Allora, dopo essere stata censurata d'imperio, come spesso accade alle donne, e dopo aver sottolineato che io non sono assolutamente d'accordo col modo di pensare della Boldrini, perché secondo me ridicolizza le donne anziché sostenerle, volevo dire che secondo me i punti fondamentali, proprio perché vivo la concretezza tutti i giorni dei problemi delle famiglie e delle donne, sono: primo, che la nostra cultura italiana della mamma e della moglie è troppo radicata, profonda, estesa perché possa essere cambiata da una legge o da, diciamo, da favori che vengono fatti alle donne. Secondo, il nostro Stato non ha un welfare adeguato a sostegno del lavoro femminile. Terzo, poi possiamo vedere poi dopo tutti i punti, c'è un'incapacità stessa della donna a negoziare alla pari con gli uomini, c'è molta sfiducia tra donna e donna, per cui le donne continuano a rivolgersi a professionisti, a artigiani, eccetera, uomini piuttosto che donne, non perché non ce ne siano, ma perché le donne si fidano più degli uomini, purtroppo. Quarto, anzi quinto, le donne continuano contro la loro dignità ad appoggiarsi agli uomini per fare carriera, per scegliere un lavoro perché tanto hanno un marito che le mantiene, quindi un lavoro che renda poco e quindi si accontentano. Allora è un problema di cultura e di donne. Io non sono una di quelle donne. Quindi non di uomini, però. No, è della donna, io lo posso dire. Se vuoi ti leggo un po' di messaggi del tipo: ma basta con questa impostazione soporifera sul lavoro delle donne, se non c'è lavoro per gli uomini, che cacchio vogliono le donne? Cioè, questi sono il tenore dei messaggi che arrivano. Allora, questo secondo me questo è vero, ma poi c'è questo fatto fondamentale. Allora, le donne si svegliano all'alba dell'8 marzo. E in genere sono casalinghe disperate o radical chic e si mettono a fare folklore di questa parità femminile, di queste cose. Allora, la parità femminile ce l'abbiamo, c'è, è un fatto di legge, dopodiché sta ogni donna a affermare il proprio diritto senza chiedere quote rose a destra e quote rose a sinistra, rispettando la meritocrazia, che deve rispettare anche uomini e donne. Non è neanche giusto che le donne abbiano un lavoro perché sono donne. È vero, io personalmente sono convinta, nel mio studio ci sono 19 donne e 2 uomini. Allora, non le ho scelte perché donne, perché non sono femminista. Non lo sono più da quando quelle pazze hanno deciso di bruciare i reggiseni sulla piazza, che è un mezzo di seduzione femminile, non lo puoi bruciare se vuoi un uomo. Lo bruci solo se l'uomo non lo vuoi. Secondo me è un paradosso, ma è così. Non sono femminista, però quando io propongo il lavoro, faccio le selezioni di quelli degli avvocati che devono lavorare con me, le donne sono più motivate, sono più preparate e quindi le scelgo. Non perché donne, ma perché professioniste brave. Poi purtroppo arriva il momento in cui si sposano. Allora non tutte reggono il problema famiglia rispetto al problema lavoro. Si accontentano di guadagnare di meno, quindi pretendono il part time se hanno un marito ricco, decidono di non avere figli se non hanno il marito ricco, vorrebbero mandare i figli all'asilo nido, ma costano in modo mostruoso, quindi lo Stato non offre la, invece di fare leggi che offra la possibilità degli asili nidi gratuiti, proporzionati in modo meno violento allo stipendio. Cioè, io vedo famiglie che cadono sul problema della donna che lavora, che crollano perché i mariti si arrabbiano, perché bisogna spendere per l'asilo nido invece che le donne stiano a casa, perché bisogna rivolgersi ai nonni e i nonni non sempre possono. Quindi vuol dire che la donna non è aiutata nel contorno, non nelle leggi. Le leggi ci sono. Però avvocato, se posso, dico avvocato e non avvocata, mi raccomando. Bravo, grazie. Bravo. No, non ci presentiamo perché sennò Nicola, intanto metterei la Bernardini al posto della Boldrini. Questo messaggio del nostro ascoltatore Nicola, vabbè. No, dico solo una cosa molto rapida. È vero che non cambiano i costumi con le leggi, ma se non cambiamo le leggi non favoriamo la mutazione dei costumi. Io insisto a dire che il nostro Jobs Act si dimentica di una cosa importantissima, che è stato oggetto di ricerca negli ultimi almeno 5 anni di organizzazione aziendale. Smart working, cioè grande flessibilità dei luoghi, delle modalità, dei posti di lavoro. Per esempio, il fatto che non c'è più Francesca con noi è anche dovuto al fatto che, per esempio, un po' più di flessibilità per chi gestisce queste cose qua servirebbero. Perché, avvocato, lei mi dice non cambiano con le leggi? Guarda, le leggi invece danno flessibilità, consentono un cambiamento, anche se non necessariamente lo forza. Sono le donne che non cambiano, il problema è che sono le donne che loro, io le vedo scegliere, piuttosto che un lavoro il marito, scelgono il marito. Beh no, però se vengono poi da lei a farsi patrocinare vuol dire che poi lo hanno lasciato il marito. Io questi racconti li sento tutti i giorni, ma li vedo anche tra quelle che lavorano con me. Ragazzi, allora, intelligenti, preparate, con sentiamo Paola Profeta come la pensa su questa rasoiata di Anna Maria. Una ragazza, 110 lode, bravissima, preparata, che lavora a Caltanissetta, il fidanzato le dice io non voglio più che stai a Milano perché sono geloso, lei molla tutto pur essendosi creata la clientela, l'opportunità, le cose, perché non vuole perdere il fidanzato. Quindi ci sono anche gli uomini che ricattano, diciamo, su questo tra virgolette, ma le donne ci cascano e le donne ci cascano. Paola Profeta, che dice, la colpevolezza femminile quanto riepesa? Da un punto in generale l'aspetto culturale io sono d'accordo che è molto importante, cioè c'è un problema culturale di fondo radicato nel nostro paese, ormai anche misurato da tutta una serie di studi, che è parte integrante del problema e che è difficile da risolvere. L'aspetto culturale riguarda non solamente gli uomini ma anche le donne, perché comunque le donne spesso tendono ad autoselezionarsi piuttosto che, come dicevamo prima, mettersi comunque nella posizione di non competere o comunque di non mettersi in gioco, soprattutto nel momento in cui ci sono i carichi familiari. Questo aspetto c'è, questo però non significa che allora non possiamo fare niente, cioè il contesto e quindi creare una situazione diversa anche attraverso le istituzioni, certo, è si importante. Può fare. Io concludo semplicemente con questa dichiarazione secca: siccome secondo me per riorientare il welfare, per le politiche di assistenza alla famiglia e per la, rendere meglio compatibile tempo lavoro, la cura parentale eccetera eccetera, e perdonatevi, qualunque sia il meccanismo di incentivo, detrazione, deduzione, quoziente familiare, chiamatelo come vuoi, la numerosità dei figli e così via, questa roba qua per avere effetti nel breve rilevanti deve, ohimè, incidere su qualche punto di PIL. Questo è l'ambito dimensionale. Allora, per fare una cosa di questo genere occorre una scelta netta nell'ambito totale delle spese sociali italiane, che hanno come media comparata la percentuale più alta che oggi va invece nel sistema previdenziale, previdenziale, e nei 94 miliardi di euro da fiscalità generale che vanno all'INPS nel 2014. Allora, per riorientare punti di PIL da quel tipo di composizione di spesa sociale a questa, dai vecchi ai giovani, vuole, ai figli, vuole, vogliamo, esatto, dirlo, esatto, vogliamo dirlo, allora, ecco. Dai uomini alle donne, ci vuole una, deve essere una nettissima priorità, cioè perché è una roba di un rilievo assoluto rispetto alla continuità della finanza pubblica italiana. Quindi io credo che su questo la testa dei maschi conta. I maschi preferiscono i soldi alle pensioni, non faranno mai la scelta prendiamo un punto di PIL da qui e lo spostiamo lì. Io di questo sono molto convinto, può essere che sbaglio, ma intanto grazie a Paola Profeta e grazie a Anna Maria Bernardini di Pace. Strade Le tempi di Scipio finita e la festa. della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 11:18, primi 50 secondi, compari. Carlo Alberto. Mario. Renato. E Oscar, apriamo un'altra pagina che teniamo aperta per un'altra mezz'ora con voi, chiamateci 800240024 e gli sms 3492386666. La domanda diventa, ma dopo 20 anni, insomma, la pretesa di un partito politico, anzi di una coalizione politica, della destra, di parlare a nome dell'impresa privata, dell'impresa privata del nord, possiamo dirlo, è finita? È finita? Sembra che sia finita, perché tra la fine dei pezzi politici, le trasformazioni che con il grande mattatore della televisione Salvini, che oramai batte Renzi, dati ufficiali sui giornali di oggi, ha un partito nazionale, ha un partito che non è più per il privato, che vuole l'autarchia agricola di Stato, che neanche, devo dire, le campagne per il grano di Mussolini erano più rispettose della quota di importazioni da mercati internazionali di quanto non fosse il nuovo programma della Lega di alcuni prestigiosi economisti, che hanno scoperto naturalmente che anche per i consumi agricoli la colpa è dell'euro, dimenticando che però l'Europa funziona con l'assistenza alla politica agricola, ohimè. Ma detto tutto questo, è finito il Nord tutelato da una coalizione politica e un partito politico? È un bene? È un male? Che cosa vuol dire? Ecco, per parlarne, oltre a chiedere le vostre opinioni, io ho appena letto un libro che non mi è piaciuto, lo dico sinceramente, perché l'autore è un autore che invece stimo, Giuseppe Berta, il libro del Mulino, si chiama La via del Nord, dal miracolo economico alla stagnazione. Giuseppe Berta è un autore che ha dato un grande contributo alla storia dell'evoluzione del sistema industriale italiano, scrive molto di Fiat, scrive di Fiat in una maniera un po' troppo ingessata per le mie opinioni e preferenze, però si ferma proprio sul punto della domanda che facciamo noi, cioè è un bel volume di ricostruttivo, ma si ferma proprio nel chiedersi, ma adesso cosa succede? Non c'è più la rappresentanza? Ecco, a me pare che non ci sia. Allora, per capire meglio se e quanto profondo sia questo problema, intanto c'è con noi un ospite che come giornalista ha dedicato libri, molti articoli, ne ha fatto un tema dei giornali che ha diretto e così via, Marco Alfieri, che io saluto e ringrazio di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, ciao Oscar. Allora Marco, dovessi dire in sintesi secondo te, innanzitutto, c'è davvero, è finita questa rappresentanza del Nord? È finita ed è meglio così? Innanzitutto fammi ricordare che tutti si occupano prima del Nord Ovest, adesso del Nord Est, però insomma diciamo che io non ho mai capito se sia giusto di separarle, io credo di no, ma c'è questa cosa, la rappresentanza è finita? Beh, è finita, diciamo che dal punto di vista politico credo che sia abbastanza in libera uscita, nel senso che il paradosso incredibile è che il male del Nord è ancora come lo si chiamava enfaticamente, come lo battezzò Ivo Diamanti, è ancora tutto lì. Il problema è che dopo 20 anni di problemi non risolti è come se il male del Nord si fosse incancrenito, fosse marcito, e quindi diciamo al cospetto dell'Europa, perché il grande attore che 25 anni fa era un pochino lì, ma non, di fatto non era così cogente nelle nostre vite, invece oggi lo è, cioè nel campo di gioco europeo paradossalmente il male del Nord è diventato il male italiano, nel senso che la Padania, per dirla alla Bossi, si è un po' in questi anni italianizzata, no? Guardandolo nel campo di gioco europeo, quindi è cambiato un po' tutto, cioè se noi paradossalmente torniamo a 25 anni fa e proviamo a capire come nacque la Lega e dando voce appunto alla questione settentrionale, c'erano due o tre elementi distintivi, cioè sostanzialmente ci fu una rottura del patto fiscale diciamo repubblicano, della solidarietà nord-sud, un po' la fine del fordismo tradizionale che espulse un po' di persone dalle grandi aziende del nord, l'emersione del lavoro autonomo di piccola impresa che chiedeva una rappresentanza dopo essere stata per tanti anni concepita e trattata come figli di un dio minore, questo portò al ritiro della delega appunto alla Democrazia Cristiana. La prima Lega com'era? Era una Lega, come dire, ruspante che piaceva a molte persone, cioè liberista, europeista, ricordiamoci la stagione dell'IFE, no? Dei liberi imprenditori federalisti europei, antiromana, eccetera, eccetera. Ma il campo di gioco era un campo di gioco ancora domestico, no? Dove tutto si giocava dentro la dimensione, cioè le imprese italiane esportavano in Francia, in Germania. Quindi tu dici in realtà la vera differenza è stata l'effetto della crisi, ma innestata su una scelta che diventa obbligatoriamente quella Europa sì, Europa no, non è domestica. Oscar, se posso, Marco, la verità è che il nord è diventato sud perché la geopolitica ha spostato e quindi il nord è finito a ovest di Paperino, per citare grandi autori del Novecento. Perché di fatto siamo stati schiacciati, siamo schiacciati nella periferia. Il nord, guarda che elaborare il lutto di essere diventati periferia è dura, Guarda, caro Alberto, scoprire che c'è sempre qualcuno più a nord di te è un grande però Marco e caro Alberto, voi state costruendo, svelando i fondamenti della svolta di Salvini, perché state dicendo che la vera risposta è dire no all'Europa che ci emargina e ci meridionalizza. Ma infatti non è vero che Salvini ha perso le connotazioni territoriali, semplicemente Salvini ha preso in mano il federalismo del sud Europa e in effetti si sta configurando come un partito regionale europeo, e questa semplicemente, invece che la sovranità nazionale col nord che se la prende col sud, Salvini ha reinterpretato lo stesso modello in un contesto geopolitico diverso. Io la vedo così, Marco. Ma allora Salvini ha capito una cosa, e come dire, in qualche modo è, secondo me, anche coerente con l'ultima Lega, paradossalmente. Cioè l'ultima Lega è una Lega che, da liberista, come è stata negli anni 90, è diventata più protezionista, no? Poi con l'ingresso in Europa dell'Italia, che stempera l'eccezionalità del nord, la globalizzazione. Ma guarda che se vai nei blog ufficiali oramai chiunque parla di tagli alla spesa viene trattato come un povero pitocco. Ci sono un paio di economisti che cominciano per B e finiscono in una risata in Italia, che spiegano oramai, avendo una setta di guru al cui confronto l'ISIS è veramente una... Ma infatti, quindi, cioè, la svolta di Salvini è una svolta che in qualche modo che prende l'immigrazione e l'euro come simbolo di ogni male e ne tira le conseguenze, insufflato da, come dire, una mediaticità pazzesca, dai sondaggi che gli danno il vento nelle vele. Immagino di poter costruire, secondo me, in maniera velleitaria, un partito populista di massa alla Le Pen. Il problema che è la vera differenza che c'è in Italia rispetto alla Francia, che in Italia c'è un signore che si chiama Matteo Renzi, che in qualche modo è... Io ho come l'impressione che in questa maniera sia la cambiare l'assicurazione sulla vita per 20 anni di governo Renzi. È assolutamente così, perché comunque Renzi è in qualche modo il populista light che tutti, diciamo, a tavola nei salotti ci possiamo permettere, no? Cioè arriva fino al punto in cui, come dire, lo sbraga. Quindi in qualche modo un pochino di voto di protesta, voto antipolitico, anticasta, in qualche modo riesce ad assorbirlo. E quindi questo permette a Salvini di saturare quel bacino, facilitato anche dal fatto che oggi il centrodestra è totalmente imploso. Però lo rende difficile, rende impossibile l'idea che Salvini possa diventare un attore capace di concorrere alla premiership nei confronti di Renzi. Piace a noi giornalisti immaginare che Matteo contro Matteo sarà il titolo del film nei prossimi anni, ma la vedo molto molto difficile. Quindi... Sentiamo un ascoltatore su questo, Emanuele, prego. Buondì Oscar, buondì a tutti, salve. Sì. E io volevo raccontare la mia esperienza di transfugo dal centrodestra liberale verso l'esperienza di Salvini. Tra l'altro a Roma ancora non è operativa, quindi il mio è sto per arrivare, ma insomma ancora non è concretizzato. Però lo spostamento ideologico dal liberismo a alcune forme di neoprotezionismo, secondo me si configura come una sorta di neopragmatismo, diciamo pure opportunismo. Però il fatto che il liberismo non è più un'ideologia quasi religiosa, ma è uno strumento che si può applicare in determinati momenti storici in cui è efficiente, e in altri invece abbiamo scoperto che magari si riscopre perfino Marx, perché io, che sono sempre stato un anticomunista, sto studiando Marx e vedo che i suoi modelli sono modelli tutto sommato efficaci. Ma Emanuele, ma efficaci cosa? Il saggio inevitabile di caduta del profitto, inevitabile? Ma Emanuele, ma di che cosa? Innanzitutto, pieno rispetto per chiunque, poi una cosa che dici pragmatismo, cioè, bisogna dosare le ricette che hanno effetti diversi nel tempo, ok. Altro conto è dire opportunismo. L'opportunismo è una cosa che dice: adesso mi metto la giacca bianca bianca, domani me la metto blu. Adesso va bene dire viva lo Stato. Ripeto, io oramai vedo i blog ufficiali che dicono non si taglia la spesa pubblica, basta austerità. La spesa pubblica in Italia ha sempre continuato a salire, la pressione fiscale è sempre salita. L'austerità lo Stato l'ha fatta fare al contribuente, lui non l'ha mai praticata. Il liberismo in Italia, io non è che non c'ero e mi sono distratto, non c'è mai stato. Abbiamo appena commissariato statalizzando l'ILVA, commettendo una serie di violazioni di legge più lunga dell'autostrada del Sole, tra gli applausi di tutti. Allora, naturalmente, io sono in minoranza a pensarla così. La mia domanda è: alle imprese del Nord va bene così? Che dice Renato da questo punto di vista? Ma io penso che questa cosa qua si ricolleghi con quella di prima. Come ci sono i maschi italiani che pensano che la donna debba stare a casa a fare la mamma, ci sono gli imprenditori italiani che pensano che lo Stato debba fare la mamma. E quindi ci sono troppe persone che in un momento di crisi, invece di cercare di fare innovazione, trovare mercati e cose di questo genere, vanno ad abbracciare il caro e vecchio Stato che ti aiuta, ti supporta e cerca di darti una manina. E quindi un po' meno mercato, un po' più Stato e siamo tutti più tranquilli. Marco Alfieri, ricordo a chi in ascolto l'ultima opera di Marco: Spread Parò, un viaggio nel nord-est che cambia pelle e nord terra ostile. Ma perché la sinistra non vince? Poi la sinistra ha iniziato a vincere, però, da quando l'avevi scritto. Io la domanda che ti faccio, Marco, è: le imprese si vedono meno nella comunicazione politica, mi sembrano molto inginocchiate di fronte a Renzi, di cui apprezzano il fatto che alcune cose gliele ha fatte. Naturalmente basta sentire Fassina o Salvini, perché la dicono allo stesso modo, significa Renzi è oramai il partito di Confindustria. Ma detto tutto questo, sono spariti gli imprenditori che avevano quel sogno per anni di una politica che facesse più privato e più nord? Beh, secondo me, diciamo, nella rappresentazione sì, nel senso che c'è un altro fattore che spesso, come dire, ci si dimentica di citare, sempre tenendo come lasso di tempo questo ventennio sul tragitto della Lega, come è cambiata la questione istituzionale, cioè che nel frattempo la grande impresa privata in Italia è sparita. Cioè, sostanzialmente la Fiat se n'è andata negli Stati Uniti, Pirelli è diventata mezza russa, cioè questo è un grande tema. Naturalmente i giornaloni non ne parlano perché in qualche modo i vecchi patti che ancora li controllano sono ovviamente espressioni di quel mondo. Ma poi, voglio dire, se parliamo di imprese editoriali, RCS è in ginocchio e non ha titolo per dare lezioni di efficienza a nessuno. Esattamente, quindi c'è, diciamo così, quella l'idea del grande imprenditore, in qualche modo, che piaceva a Certuni, cioè, è un po' finita, se mai c'è stata, ma questo comunque è un altro discorso. Resta, come dire, un mondo vivacissimo di quarto capitalismo molto internazionalizzato, che della politica sostanzialmente italiana se ne frega perché come orizzonte il mondo. E poi c'è un pochino di imprenditoria che purtroppo vive un pochino, tanta imprenditoria che vive sul mercato interno, che fa fatica a altre difficoltà. E quindi, diciamo, e poi, come dire, chi invece, l'imprenditore che ha, come dire, in qualche modo voglia di interfacciarsi con la politica, è chiaro che oggi in qualche modo è renziano nonostante tutto, perché appunto se le alternative sono Salvini o Grillo, è chiaro che in qualche modo Renzi diventa una sorta di, diciamo, di catalizzatore, ma quasi, come dire, di in mancanza d'altro. Però insomma il realismo di Marco Alfieri è i quattro punti: sintesi, l'impresa privata, i grandi hanno perso, quindi non va meno di moda, poi chi fa all'estero e tira più del fatturato dei margini se ne fotte dell'Italia, e questo lo capisco, fa bene. Sul mercato domestico le due alternative, Renzi e Salvini, sono alternative di realismo. Naturalmente, detto questo, quinto punto: Giannino si suicida, perché è meglio che si occupi di altro nei prossimi anni, non perché debba fare politica, ma perché sono convinto che le idee di un privato efficiente e di uno Stato efficiente, non sono per l'abolizione dello Stato, vorrei uno Stato efficiente, hanno bisogno di uno stimolo che viene dal privato, di gente che si impegna e che dice a Renzi non ci puoi dire che tagli le tasse se non è vero, perché non mi dicono che non è vero, e che dica a Salvini se ci prometti la battaglia del grano sei uno che per prendere voti è capace di dire la qualunque. Ecco, se non c'è più gente così non ne parliamo più, perché siamo a delega in bianco per ricette ideologiche. L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte. conti della belva. Eccoci tornati in diretta, quelle 11.38 e 49 secondi, compari. Carlo Alberto. Mario. Renato. Oscar, stiamo parlando, un blocco dedicato, è finita la rappresentanza del Nord politica, perché la Forza Italia sta come sta e la Lega è diventata un'altra cosa, e insomma con Marco Alfieri, Carlo Alberto, Renato hanno trovato un punto d'incontro. Beh, insomma c'è una trasformazione geopolitica, l'Italia è diventata oramai il sud d'Europa e quindi... Beh, ma io sono abituato, Salvini, sono sempre stato a sud perché sono sotto il po'. Sei sotto... Però insomma questa è la cosa, io solo penso diversamente da voi, penso che questa roba di te di essere tutti autarchici, nazionalisti, statalisti, non... e praticamente sentire gente che a destra e a sinistra dice la stessa cosa, cioè ci vuole più Stato, bene, sarà un ulteriore contributo a peggiorare i problemi che da 20 anni ci portano lì. Ma no, no, non sto vi dicendo che voi siete favorevoli, no, però allora un po' di telefonate, cominciamo con Roberto, che non sia un ascoltatore qualunque, perché è il portavoce del ministro Padua. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Eccoci qua. Pronti alla bacchettata? Ho chiamato perché devo, ammetto che non ho sentito tutta la puntata dall'inizio, purtroppo, però ho sentito Oscar urlare contro dichiarazioni del governo che dice che abbassa le tasse e poi ho sentito citare, per smentire questa affermazione del governo, dati relativi al 2014. Sì. Allora, mi sembra opportuno ricordare che quando il governo dice abbiamo fatto una grande manovra di riduzione delle tasse, parla della legge di stabilità del 2015 e quindi non se ne può trovare traccia di questa riduzione sui conti del 2014. Quindi siamo tutti d'accordo con i dati ufficiali, ripeto, dal MEF, per cui la pressione fiscale nel 2014 è aumentata. Io quello ho detto, ho fatto tre esempi: aumento del totale delle entrate pubbliche 48,1% del PIL, aumento delle imposte locali di quasi 3 miliardi, ma sono le cifre ufficiali perché io non sono abituato a mentire sulle cifre, e poi l'aumento del totale delle entrate sulle tre diverse grandi cespiti delle imposte energetiche, cioè sia sui combustibili, sul gas, sul metano. C'è qualche errore in quello che ho citato? Nei dati ufficiali fatti pubblicati dall'Istat e non dal MEF, la pressione fiscale nel 2014 cala di un decimo di punto rispetto al 2013, mentre crescerebbe nelle stime ufficiali del governo, crescerebbe nel 2015. Ora, diciamo, il MEF, visto che avete citato i comunicati del MEF, non smentisce l'Istat, segnala soltanto che l'intervento del bonus cosiddetto da 80 euro, secondo le regole contabili che nessuno contesta, vengono classificate a fini statistici come spesa sociale e non come riduzione delle tasse. Quello che noi ci limitiamo a fare presente è che l'intenzione del governo con il bonus di 80 euro è di intervenire sul cuneo fiscale, in altre parole ridurre la differenza tra il costo che sostiene il datore di lavoro e il netto in busta paga del lavoratore, e l'effetto il lavoratore lo sente perché si ritrova con 80 euro in più in busta paga. Però Roberto, a netto di rispiegare che cos'è il bonus, io quando vedrò i comunicati che attestano una diminuzione in termini reali e nominali, sappiamo che la cosa è diversa, del totale delle entrate pubbliche italiane, ne darò atto. Finché li vedo, quelli ufficiali, che l'aumentano, potete telefonare, potete chiamare l'editore, potete dire quello che volete, che sono contrario al governo, e non è vero, perché stimo le persone che ci lavorano dentro, ma i fatti sono i fatti. Se non vi piace chi ricorda le cifre ufficiali che attestano l'aumento delle entrate, non so che cosa fare. Certo, non è più l'aumento eclatante degli anni di crescita, però si spostano le poste e il totale continua a crescere. Nel 2014, che è il dato di cui abbiamo il preconsuntivo, continua a salire. Questa è la mia opinione e mi pagano per questo, perché a maggioranza c'è chi batte le mani, i giornalisti che battono le mani, rivolgersi da un'altra parte. Ma poi, scusi dottor Basso, sono seminario, se guardiamo il DEF mi pare che la pressione fiscale si mantenga largamente inalterata nel triennio, diciamo, di piano, per cui c'è stato questo piccolo gradino di 0,4% imputabile alla ricontabilizzazione del bonus, ma dopodiché abbiamo la spada di Damocle delle aumenti delle imposte indirette, e quello bisogna dimostrare di riuscire a tagliare le spese e disinnescare questa mina, perché diversamente nei documenti ufficiali la pressione fiscale non si muove, addirittura aumenta tra un paio d'anni di un paio di decimi di punto. Questi sono documenti ufficiali del governo italiano, quindi non credo che diamogli la possibilità, altrimenti sembra che certo, stiamo era solamente una constatazione. Buongiorno seminario, l'osservazione mi sembra appropriata e corretta, perché nei documenti ufficiali del governo viene calcolato l'impatto sulla pressione fiscale dell'aumento delle tasse, certo, che è stato programmato in termini di clausole di salvaguardia. Questi sono fatti, poi ci sono gli impegni. L'impegno del governo è di disinnescare quelle clausole di salvaguardia attraverso tagli di spesa. E vedremo, 16 miliardi a cominciare dalla prossima legge di stabilità. Anche con i rilievi della Corte dei Conti, diciamo, sulla... Comunque, basta che sia chiaro al portavoce che qui non c'è nessun pregiudizio che ci anima, e qui, e anzi, grazie dell'intervento. Posso fare una provocazione, Oscar? Al portavoce no, al portavoce devi dare solo rispetto, non provocazione. No, ma io gli do al massimo rispetto, però volevo invitarli da me quando facciamo il bilancio. Alla mattina invito lui e il ministro, magari se viene il ministro mi asfaltano anche la strada davanti, per vedere poi nelle piccole aziende cosa vuol dire pressione fiscale. Vabbè, ma questo credo che lo sappia. Comunque grazie a Roberto Basso. Sentiamo rapidamente Federico da Trento. Federico. Buongiorno. Buongiorno. Volevo semplicemente, io ho 21 anni, volevo semplicemente portare la mia piccola opinione in merito alla rappresentanza politica della Lega nelle imprese del Nord. Io vengo da una provincia che è Belluno. Sì. Secondo me la rappresentanza politica delle piccole aziende a tutelare i loro interessi sono più gli enti locali, il comune, la provincia, al massimo la regione. Alle grandi imprese... Che il partito si chiami Lega Nord, Popolo della Libertà. Non ne hanno bisogno, dice. Non ne hanno bisogno, hanno il potere derivato dai soldi, dai propri soldi e dai lavoratori, che è un potere tra virgolette legittimo, danno lavoro a decine, centinaia, migliaia di persone. Però sai, il tessuto di imprese italiano, le grandi imprese oramai sono pochissime, infatti, cioè è un tessuto fatto di micro e prima ancora che di piccole. Il 95% sono piccole e medie. Che anche... era il classico bacino, insomma, e continua a esserlo dai sondaggi di Salvini, che oramai va verso il 18%. Quindi quello è un mondo che sembra essere indifferente al fatto che prima gli si diceva votiamo contro Roma, contro lo Stato, meno tasse, e adesso gli si dice votiamo per un'Italia con più spesa pubblica, che è sbagliato tagliarla, con settori protetti, ma quale concorrenza, ma quale mercato? Sembra indifferente, perché dice no, ma va bene comunque, va bene così, perché la questione di fondo, e qui c'è una convergenza che è diventata diversa, è usciamo dall'euro e allora tutti riguadagneremo, e questa è diventata la cosa che unisce chi prima diceva di volere più efficienza privata e adesso dice no, ci vuole più Stato per uscire dall'euro. E ti credo, se vuoi uscire dall'euro poi ci vuole bisogno dello Stato che stabilisce un mucchio di cose e fa l'economia di guerra, in buona sostanza. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta a questo ultimo giro di opinioni alle 11.48 primi dai compari. Carlo Alberto. Mario. Renato. E Oscar. Abbiamo ancora una telefonata del nostro ascoltatore Federico da Genova, che credo che sia ancora sul tema gender gap, uomini e donne. Federico, prego. Buongiorno. Buongiorno. Posso portare una testimonianza personale, sia come, diciamo, padre lavoratore con 22 anni di esperienza, sia come manager e osservatore di alcune centinaia di persone che ho avuto il compito di coordinare in questi anni. Come padre direi che il mio caso è quello di una famiglia nella quale, sposandoci giovani, a un certo punto ci siamo progressivamente resi conto che l'assetto migliore, senza forzature, della nostra famiglia vedeva, nonostante mia moglie abbia una laurea con 110 lode, il fatto che io progredissi nella carriera e che lei facesse la mamma. Quindi lei ha scelto liberamente, anzi... Federico, lei ha scelto liberamente? Ti senti di ripetere in piena coscienza questa frase? Lei ha scelto liberamente? Io, guardi, mi sono sposato giovanissimo e non sapevo assolutamente cosa sarebbe stato della mia vita. Questo d'accordo. Però al momento in cui si sono dovute pesare la cura di figli da una parte e la tua carriera, la libertà di questa scelta, sei proprio convinto che fosse piena? Ma credo proprio di sì, perché di fatto le situazioni poi si verificano momento per momento. O uno ha un preconcetto per dei timori ancestrali, per cui, come si è sentito prima, quello che richiama la fidanzata o la moglie da remoto perché non si fida di lei, o è geloso. Perfetto, queste dinamiche sicuramente esistono, come pure esistono quelle che ho sentito citare prima, degli uomini che fanno preferenze sul lavoro e hanno pregiudiziali sulle donne perché vuoi che ci sono quei giorni nel mese in cui non sono così. Ma nel vostro caso lei dice non è successo? No, io devo dire che nella mia famiglia mia moglie ha scelto liberamente di non dedicarsi ad altre occupazioni perché si rendeva conto che il suo compito di madre e di educatrice in casa avesse un valore molto rilevante, che se lei avesse scelto... Ho capito, ma scusa, posso fare una domanda? Non metto in dubbio la buona fede, ma come mai nei paesi in cui c'è la più alta partecipazione fino al mercato del lavoro c'è un maggior numero di... nati, quindi figli per donna e per famiglia? Noi siamo proprio convinti, perché questa esaltazione, il ruolo della madre a casa, io rispetto il suo punto di vista, lo rispetto, però i numeri, ancora una volta, sarà, ma a me dicono che la scelta migliore è un'altra. Poi noi siamo convinti che il sacro ruolo di madre sia quello di dire tu fai carriera e io scelgo liberamente di stare a casa, non metto in dubbio, per me i numeri dicono un'altra cosa. Caro, tu che dici? Ah, io dico che dovremmo tassare il lavoro casalingo presuntivamente, almeno ribilanciamo gli interessi e gli incentivi. Lo so che è una roba un poco liberale. Segnaliamo la Padova. Sì, sì, perché a suggerire nuove tasse al governo sono sempre molto sensibili, come sai. No, ma in questo caso siamo un tema di incentivi. Tacci. Allora, invece, la serie non si può fare. No, io una cosa volevo dire, invece, prima di non si può fare, tanto oggi è una cosa abbastanza leggera. Ed è un appello alle aziende e a tutta questa questione del gender gap. Allora, secondo me la vera sfida che hanno le aziende in questo momento è quella di gestire la diversità, che non vuol dire la diversità uomo-donna o cose di questo genere, è sul trovare il modo per valorizzare il più possibile le competenze che ognuno di noi ha. È giusto. La diversity è più importante della parity, per essere proprio specifici, perché la diversity arricchisce. La parity semmai è un tema di giustizia, ma non di efficienza. Ma, vedi, il problema non è quello della giustizia, perché la giustizia poi porta al livellamento. Io purtroppo sono abbastanza vecchio per aver visto per un sacco di anni il famoso discorso dell'egualitarismo all'interno delle aziende. Quindi tutti uguali, tutti che devono fare la stessa cosa, eccetera, eccetera. Invece la vera sfida che noi abbiamo oggi come imprenditori è la diversità, è quella di gestire al meglio le competenze e le aspettative di ognuno. Sì. Perché se noi non riusciamo a valorizzare le aspettative delle persone che lavorano con noi, la produttività non la raggiungeremo mai. No, non c'è dubbio. Però io posso farti una domanda, ma nella tua azienda sei sicuro che non ci siano mai state preferenze o pressioni sessuali? Pressioni sessuali... Scusa, la domanda è brutale. No, allora non credo. Non credo. Io ci credo naturalmente perché ti conosco, nelle aziende dove ho lavorato io c'era questo. No, io ho una storia, che forse non è il caso di raccontare alla radio, però per cui la mia attuale compagna è una persona che lavorava da me e nel frattempo è stata licenziata perché era la mia compagna, purtroppo per lei, ma perché c'è una regola da noi che dice che... Nel caso è che era meglio evitare il conflitto di interesse. Non ci vuole conflitto di interesse, però una persona molto in gamba, un altro lavoro l'ha trovato. Però il vero problema è che io ogni volta adatto adatto o cerco di adattare l'organizzazione, ed è una cosa che fa un po' impazzire i cercatori di test e cose di questo genere, perché io cerco di adattare il più possibile l'organizzazione alle risorse che, le risorse che ho, che hai da valorizzare, e quindi, ma che hanno delle specifiche. Se una persona è brava a fare una determinata cosa, cerco di trovargli lo spazio per fare quella cosa. Non mi ostino a dire le procedure aziendali dicono questo e quindi dobbiamo assolutamente mettere lì uno che fa tutte le mattine il timbro. Cioè, non me ne frega niente che le procedure aziendali dicano cosa teoricamente uno deve fare. A me interessa che quello lì alla mattina si alzi e sia contento di venire a lavorare e pensi di poter utilizzare la sua propensione nel lavoro che fa. Carlo, le aziende di cui sei consulente che giri, sul tema della sensibilità non alle denunce per sexual harassment che abbiamo derivato dal mondo anglosassone, ma di una vera cultura che eviti la cosa antipatica dei maschi, secondo te questa funzione c'è nelle aziende che vengono? Nelle grandi aziende multinazionali assolutamente sì, devo dire. In quella italiana è un po' più di fatica, però insomma, devo dire appunto più che un dibattito sulla parità, no? Sugli uguali punti di partenza, il tema vero è arricchire, no? Portare donne che hanno respiro diverso. Ne avremo bisogno anche però qui. Però continuate a parlare merma. D'altro. Il problema di oggi è perché non le facciamo entrare. E comunque su questo, grazie a voi che avete continuato a darci opinioni, grazie ai portavoce di tutti i ministri, continuate a credere con relativa scetticismo a quello che dice il governo. E appuntamento a sabato prossimo.